2024 2024 di Enrico Pagliarini. Siamo pronti per una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Benvenuti o bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete visitare il nostro sito internet dove troverete questa puntata in versione podcast. O forse alcuni di voi stanno ascoltando la versione podcast di 2024. Come sempre vi consiglio di abbonarvi, una volta che vi siete abbonati naturalmente in modo gratuito, avete sottoscritto il podcast di 2024, non dovete fare più nulla. Ogni settimana in modo automatico la puntata si carica sul vostro sistema di gestione del podcast. In questa puntata avremo una ricca pagina dedicata al commercio elettronico, che è un asset importante nella digitalizzazione delle nostre imprese. Certo, non tutte le imprese devono fare e-commerce, ma sicuramente questa è un'opportunità per molte delle nostre aziende, per molti dei nostri prodotti. Iniziamo con le nostre Digital News, notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Secondo una ricerca realizzata per BSA, la Business Software Alliance, cioè l'associazione mondiale che monitora e combatte i fenomeni di pirateria digitale, oltre il 60% degli italiani ritiene normale scaricare illegalmente dal web software, film o musica. In effetti è veramente incredibile come tante persone che si ritengono per bene e oneste dichiarino senza problemi che scaricano illegalmente contenuti da internet. Di fatto sono dei ladri. La cinese Huawei, che ha appena presentato il nuovo smartphone P8, è stata accusata di plagio dall'altro grande produttore cinese ZTE. C'è anche Xiaomi, ma in questo caso la diatriba è tra ZTE e Huawei. Allora, secondo ZTE, la tecnologia utilizzata da Huawei in questo nuovo smartphone, in modo particolare nella fotocamera, è stata copiata. Si tratta di una tecnologia che consente di sfruttare alti tempi di esposizione per creare particolari effetti. Digital News. Direi che questo trend, quello delle nuove fotocamere con tempi di esposizione, un controllo dei tempi di esposizione molto alti, è uno dei nuovi trend delle fotocamere degli smartphone. Altra notizia riguarda la radio digitale. Allora, all'inizio della settimana il governo norvegese ha confermato che dal 2017, gradualmente dall'inizio dell'anno fino a dicembre, le radio nazionali norvegesi verranno distribuite solo in digitale con lo standard DAB+. In FM rimarranno solo microstazioni locali e, visto che parliamo della Norvegia con pochi abitanti, potete capire che le microstazioni locali sono veramente molto molto piccole e quasi insignificanti. Quindi di fatto molti hanno detto e titolato la Norvegia spegne l'FM e va tutta sul digitale, sulla radio digitale. L'altro paese europeo che ha già deciso di spegnere l'FM è la Svizzera. Lo farà gradualmente dal 2019 al 2024. Discussioni avanzate per spegnere le frequenze analogiche sono in corso in Gran Bretagna e in Germania. In Italia non c'è nessuna previsione per spegnere l'FM, cosa che probabilmente potrà accadere tra molti anni, però sapete che buona parte del territorio italiano, circa il 70% della popolazione, è già coperto con i segnali della Digital Radio e anche Radio 24 è diffusa in Digital Radio. Io dico sempre, la prossima auto che comprate, compratela con un'autoradio digitale. Digital News. Google ha lanciato ufficialmente l'offerta come operatore mobile virtuale, per ora solo negli Stati Uniti e solo per gli utenti del Nexus 6, quindi è un'offerta e un progetto per pochi per il momento. Allora, prezzi sono interessanti, sono bassi per il mercato americano ma molto alti per il mercato, per un consumatore italiano. Allora, partono da $20 al mese con telefonate ed SMS illimitati e $10 per ogni giga consumato. Poi c'è un meccanismo per cui quello che non consumi ti viene restituito come credito, ma questi sono i prezzi. A questi prezzi vanno poi aggiunte le tasse che negli Stati Uniti cambiano da Stato a Stato. Dunque, c'è un'altra notizia che riguarda Google, che questa settimana, probabilmente alcuni di voi lo avranno letto, abbiamo scritto anche sul Sole 24 Ore, Allora, ha cambiato l'algoritmo che indicizza i siti web sul motore di ricerca per le ricerche fatte da terminale mobile. Allora, il cambiamento fa sì che il motore darà più peso ai siti ottimizzati per il mobile. Quindi se tu hai un sito, se fai una ricerca da un tablet o uno smartphone, il motore di ricerca nei risultati darà più peso a quei siti, più importanza a quei siti che sono ottimizzati per il mobile. E cos'è un sito ottimizzato per il mobile? Un sito che quando tu lo vai a visitare da uno smartphone si adatta alle dimensioni dello schermo dello smartphone. Non è un particolare da poco, eh? Da tempo si dice che bisognerebbe fare siti web che si adattano ai vari terminali con un occhio d'attenzione al mobile. Alcuni produttori, grandi produttori, dicono mobile first, mobile only, per dare un'indicazione in questa direzione. Comunque, per quale motivo Google ha fatto questo? Allora, non si fa nulla per nulla. Allora, questa è una mossa determinata soprattutto dal fatto che il mondo mobile genera per Google meno ricavi rispetto al desktop, quindi al computer, e la pubblicità non cresce come dovrebbe. Sapete che il motore di ricerca che Google guadagna dalle pubblicità che voi vedete in testa alle ricerche e a fianco delle ricerche. Sono link sponsorizzati e da lì guadagna. Allora, visto che dal mondo mobile non arrivano risorse come dovrebbero, visto che il mondo mobile sta crescendo molto, non c'è una crescita analoga per il motore di ricerca. Allora, questa è una mossa sostanzialmente che serve per fare crescere tutto l'ecosistema mobile dei siti internet e per, di conseguenza, fare crescere anche gli investimenti pubblicitari sul mobile. È anche una dimostrazione della forza di Google, che in questo modo di fatto obbliga ad un ripensamento di chi progetta i siti, ma anche delle stesse aziende che hanno i siti, che di fronte a un cambiamento di questo genere penseranno con molta più attenzione al mondo mobile. È molto interessante, questo è estremamente interessante. Poi vedremo quali saranno i risultati. Al momento non ci risultano cambiamenti stratosferici, però vedremo nelle prossime settimane, perché alcuni di questi cambiamenti li cominceremo a vedere nel giro di qualche giorno, perché questo cambiamento è andato online proprio questa settimana. Adesso parliamo di e-commerce, partendo da una notizia che arriva dalla Germania. Allora, che cosa succede in Germania? Amazon ha lanciato una sperimentazione con Audi e con DHL nella sola Germania e nella sola città di Monaco per consegnare i pacchi con la merce ordinata online direttamente nel baule dell'automobile. Avete capito bene? Allora, per il momento è un test limitato ad alcuni clienti selezionati e la loro auto è stata modificata per permettere al corriere di accedere al baule dell'auto con una chiave virtuale utilizzabile una sola volta. È una chiave digitale, di fatto un codice che attiva il meccanismo per aprire la portiera. Tanto le automobili ormai sono tutte digitali, molte chiavi sono telecomandate, quindi hanno un codice che sblocca la portiera. Allora, come funziona questo sistema? Molto semplice, si ordina la merce, si richiede di consegnare in auto, quindi tra gli indirizzi di consegna uno va a mettere l'automobile e l'indirizzo di consegna sarà la targa, poi naturalmente l'automobile è anche geolocalizzata e quindi il corriere riceve la posizione, arriva a destinazione, apre il baule con questa chiave univoca, un codice appunto per aprire il portellone dell'auto, consegna il pacco e una volta messa la merce dentro al baule, la chiave, quindi questo codice, diventa inutilizzabile, quindi vale solo per quella volta, e la consegna della merce viene notificata via app. Quindi a me, che ho fatto questo ordine, mi arriva sull'applicazione di Amazon la notifica che mi è stata consegnata la merce ordinata nel baule della mia auto. Allora, ovviamente si può fare anche l'inverso, c'è chi sta pensando anche all'inverso, cioè di mettere, se io devo fare una riconsegna magari di una merce che devo restituire al corriere, metterò la merce in auto e dirò al corriere va a ritirare nell'automobile. Allora, l'obiettivo è naturalmente in futuro estendere questo servizio a tutte le automobili, al di là del gruppo della marca Audi, di qualunque produttore. Già lo scorso anno però va detto che la Volvo aveva mostrato al Mobile World Congress di Barcellona una idea simile a questa, quindi l'idea non è originale, però per il momento la Volvo si era limitata a un test là, che aveva poi fatto anche sul campo, che per il momento non ci risulta sia passata alla fase commerciale. Audi ha in progetto di passare alla fase commerciale, però vedremo, per il momento si tratta solo di un altro test. Perché si sta cercando di fare test di questo genere? Il problema dell'e-commerce è quello che abbiamo già commentato altre volte, cioè offrire luoghi di consegna alternativi alla casa, dove la gente non è sempre reperibile. Negli uffici non è sempre possibile fare la consegna, e questo appunto, questi sono alcuni dei limiti dell'e-commerce che chi fa questo business cerca di superare con varie idee. Allora, in effetti, se ricordate, un anno fa ci siamo occupati di commercio elettronico, se ricordate le interviste, il tema dello scorso anno era proprio questo, creare luoghi alternativi di consegna. In questi ultimi mesi si sono diffusi, non tantissimo, ma comunque nelle grandi città, in alcune grandi città, gli armadietti nei quali arriva la merce. Uno dice: voglio che la merce sia consegnata all'armadietto di Piazza Garibaldi, ad esempio. Uno va quando vuole, che ne so, il giorno dopo, due giorni dopo, c'è naturalmente una scadenza, in quell'armadietto digita un codice che gli è stato comunicato via mail, ritira il pacco, ritira la merce. Oppure ci sono altre soluzioni, la consegna che viene fatta nei negozi tradizionali, questo già da un po' di tempo, nei bar, questo c'è un network in the box, ragazzi che abbiamo intervistato lo scorso anno, che hanno creato questo network nei bar, che sono luoghi aperti dalla mattina presto fino alla sera tardi. Negli uffici postali c'è chi ha fatto un accordo con Poste per consegnare la merce negli uffici postali. Insomma, questo è un po' uno dei problemi che si sta cercando di risolvere. Quest'anno, questa settimana, c'è stata la 10ª edizione dell'e-commerce forum, che ha riunito a Milano tutti i player più importanti del commercio elettronico italiano. Ne parliamo tra poco, a 2024. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Adesso parliamo di e-commerce, del commercio elettronico italiano. Ne abbiamo parlato questa settimana a Milano alla 10ª edizione dell'e-commerce forum con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Ma l'e-commerce sta crescendo ormai da 10 anni, continua a crescere. Le previsioni quest'anno sono ancora di una crescita del 15%, l'anno scorso erano del 16%. Crescono il numero di utenti, a questo mese, nella nostra analisi mensile abbiamo rilevato che ci sono 16,5 milioni di utenti che comprano online, con una crescita importante, perché negli ultimi 3 anni siamo passati da 9 a 16. Crescono anche le imprese che vendono online, perché abbiamo visto che in questo momento in Italia ci sono 30.000 imprese che vendono online. Detto tutto ciò, gli aspetti positivi sono la digitalizzazione del cliente italiano, del consumatore, ma soprattutto la digitalizzazione delle famiglie. Questi 16 milioni di italiani rappresentano praticamente la capacità del 50% delle famiglie di comprare online, perché almeno nel 50% delle famiglie italiane c'è una persona che sa comprare, il che significa che il mercato, che il cliente, che il consumatore è pronto, ma chi non è ancora pronto sono le imprese. Infatti prima facevo riferimento al fatto che ci sono 30.000 imprese online, ma se lo confrontiamo con la media europea, dove abbiamo rilevato nella nostra ricerca europea, proprio con i dati della scorsa settimana, che ci sono 745.000 imprese in Europa, significa che le imprese italiane digitalizzate sono circa il 4%, che fa il paio praticamente con quanto noi rappresentiamo nella torta complessiva dell'e-commerce europeo. Nella torta complessiva, che sono circa 400 miliardi di euro, dove chi la fa da padrona sono i francesi, sono gli inglesi, sono i tedeschi, l'Italia rappresenta solo il 3% di questa torta, il che significa che le imprese italiane, che rappresentano il 3% delle imprese digitalizzate europee, non competono in questa torta che è la torta del futuro. Perché se pensiamo che a livello planetario il Fondo Monetario ha decretato per quest'anno una crescita del 3,5% del PIL a livello quello delle economie complessive del nostro pianeta, e se pensiamo che l'e-commerce sul pianeta cresce del 18%, capiamo come le imprese italiane non stanno prendendo questo come la vera opportunità per far risaltare e per sviluppare quella famosa parola chiave che spesso ci diciamo tra tutti, tra noi, e ce la diciamo addosso: il Made in Italy. Questa parola che tutti conoscono a livello globale, che viene ricercata sui motori di ricerca come la parola chiave per cercare il vino, per cercare il mare, per cercare il fashion, la moda, ma poi le imprese non seguono. Il che sta a significare che dobbiamo, come sistema Italia, capire che se vogliamo competere, se vogliamo esportare in futuro, dobbiamo rivolgerci a questi 4 miliardi di persone che sono su internet nel pianeta, a questo 1 miliardo e 200 milioni di persone che comprano online, perché se le imprese italiane non parlano a questo 4 miliardi di persone, non vendono a questo miliardo di persone, non vendono alla fetta del pianeta più ricca, più in qualche misura pronta a capire il bello dell'Italia. Quindi da un certo punto di vista un dato che emerge, ma mi pare che sia un dato che forse abbiamo commentato anche altri anni, negli anni passati, che sono più digitalizzati i consumatori delle aziende in Italia, e forse non è un problema di normative, è un problema di cultura delle imprese. È talmente vero quando diciamo che sono più digitalizzati i consumatori che le imprese, che c'è un dato che sottolinea questo fenomeno. Noi importiamo online, anche nel 2015, l'abbiamo detto questa mattina, importeremo nel 2015 4,5 miliardi di merci, prodotti, servizi, turismo, biglietteria aerea dall'estero, e ne esporteremo 3,5 miliardi, il che sta a significare che anche nel 2015 la bilancia commerciale delle merci vendute sul digitale è negativa per l'Italia. Chi fa commercio elettronico in Italia è capace di farlo? Quindi se le aziende si buttano in questo mercato, sono poi capaci, o ci sono grandi player tipo Amazon o comunque altri player anche europei che schiacciano le aziende italiane online? Ma bisogna capire che le aziende italiane hanno sicuramente un ostacolo o vari ostacoli. Hanno l'ostacolo della dimensione, l'ostacolo della cultura digitale da parte dell'imprenditore. L'imprenditore italiano è meno tecnologico, meno digitalizzato dell'imprenditore internazionale. Abbiamo la mancanza di competenze, abbiamo la mancanza di capacità, anche per la dimensione, di fare investimenti da parte delle piccole imprese, e quindi ci sono tutta una serie di ostacoli. Però il tema delle grandi piattaforme che oggi sono presenti nel territorio internazionale vanno lette come un'opportunità, non come un problema. Sulle grandi piattaforme, infatti oggi abbiamo parlato molto di multicanalità, le grandi piattaforme sono un mezzo per farsi conoscere dal cliente finale. È impensabile oggi fare un sito in Cina se non si è presenti anche sulle piattaforme cinesi, ma la parola chiave è anche, nel senso che le piattaforme non devono essere l'unico mezzo col quale arrivare al cliente. Perché abbiamo parlato oggi di una cosa chiave: il super consumatore. Il consumatore, questo 1,5 miliardi, 1,2 miliardi di persone nel pianeta, sono, li abbiamo definiti super consumatori perché sono loro che guidano la danza, sono loro che sanno dove andare a cercare l'informazione chiave, sono loro che decidono se informarsi online e comprare offline, o se informarsi offline e comprare online. Le piattaforme sono un mezzo per servire questo consumatore planetario. Dobbiamo però capire che l'impresa italiana non deve vendere solo online, perché il tema vero non è quello della vendita online, è quello che io definisco in due parole chiave: la digital transformation. Bisogna che le imprese comincino il loro percorso di trasformazione digitale. Che cosa vuol dire la trasformazione digitale? Vuol dire mettere i propri cataloghi in maniera digitale, vuol dire fare le fotografie in maniera digitale, vuol dire elencare le proprie merci e rappresentarle, narrarle in maniera digitale, vuol dire creare un catalogo in formato XML che possa essere facilmente trasferito sulle grandi piattaforme o su altri venditori, vuol dire creare dei processi di contatto portabilità digitale, vuol dire creare una logistica che deve essere pensata per servire il cliente singolo e non soltanto il negoziante o il grossista o il grande distributore, vuol dire fare una trasformazione culturale dell'impresa, vuol dire comunicare in maniera digitale. Ecco, vendere non vuol dire soltanto vendere, vuol dire comunicare. Non posso pensare di essere conosciuto in Cina, in Giappone, in Vietnam se non sono presenti sui social network locali, se non sono presenti attraverso la possibilità di fare comunicazione attraverso tutti i meccanismi digitali. Una volta l'impresa comunicava attraverso la televisione o attraverso la carta patinata o la radio. O la radio. La radio è già quella più vicina al mondo digitale, quindi la radio permane come una grande risorsa, ma le altre piattaforme sono piattaforme che non spariranno, ma saranno complementari in termini di comunicazione strategica per raggiungere il consumatore nel suo percorso d'acquisto, perché il percorso d'acquisto del consumatore è diventato un percorso erratico, che lui sa ma l'impresa non conosce. Siccome lo sa solo lui e l'impresa non conosce il suo percorso, l'impresa deve essere previdente nell'accompagnarlo, nel seguirlo, nel supportarlo, nel dargli delle informazioni, nel fargli conoscere i prodotti. Non è pensabile di vendere in Cina se l'impresa italiana non è presente sui portali cinesi facendo sapere al consumatore cinese qual è il proprio catalogo d'offerta. Allora, le imprese devono digitalizzarsi, devono andare su internet, devono avere il sito mobile, devono fare commercio elettronico. Oh, naturalmente non tutte le aziende devono fare commercio elettronico, però sicuramente questa è una opportunità che forse molti potrebbero cogliere. Ma quelle che potrebbero farlo hanno le competenze? Molto spesso no. Ma devono averle? Non è detto che debbano averle, cioè uno fa il falegname, magari fa cose che può esportare, che ha un mercato internazionale, ma non è detto che debba avere le competenze. Allora, il tema di quest'anno, uno dei temi importanti di quest'anno, è la maturità dell'offerta di servizi per chi deve fare e-commerce. C'è chi oramai offre una gestione completa dei pagamenti, quindi non si deve più preoccupare di gestire i rapporti con banche, carte di credito, eccetera eccetera. C'è chi si occupa della logistica. Allora, naturalmente tutte queste cose esistono già da un po' di tempo, ma mi sembra che ci sia una maturità di questi servizi sempre maggiore. Ovviamente in qualsiasi azienda, piccola o grande che sia, un po' di competenza digitale deve rimanere. Ma che cosa sta succedendo sul mercato? Ne abbiamo parlato con Gianluca Canè, che è fondatore di Blue Lab, che è un'agenzia piemontese che si occupa proprio dell'accompagnamento delle aziende verso anche l'e-commerce, ma in generale nella comunicazione digitale. Allora, le soluzioni esistono. Il problema è che questo tipo di investimento va affrontato con la stessa serietà con cui si affronterebbero gli investimenti non del digitale ma nel mondo analogico, quello tradizionale. Quello tradizionale. Sì. Se si fa questo e ci si affida a degli artigiani, a dei partner seri che non ti raccontano che è tutto gratuito, che è tutto facile, che è tutto veloce, ma che con un percorso di probabilmente 3 anni di tempo davanti, continuando a fare piccoli investimenti oculati in questo settore, si possono raggiungere dei risultati significativi. Gli elementi ci sono. Senti, nel vostro rapporto con le piccole, piccolissime a volte imprese, con gli imprenditori, cosa state scoprendo? Che mediamente si sta comprendendo l'importanza anche del commercio elettronico o con molta fatica? Come in tutte le cose c'è una selezione naturale, quindi finalmente diciamo cominciamo a percepire un cambio di passo e di mentalità da parte anche del piccolo e piccolissimo imprenditore. Quindi in mezzo a tante persone che, avendo solo un'idea, pensano in 4 e 4 8 di riuscire a risolvere e di arrivare immediatamente al business, ci sono persone che hanno delle idee sane, che magari vengono anche da delle loro precedenti esperienze operative, hanno della competenza e stanno pensando come poterla scalare magari anche nel piccolo per essere degli imprenditori autonomi e portare la loro soluzione, idea online. E questo sta avvenendo. Quando tu fai riferimento a piccoli investimenti, a che cifre fai riferimento? Faccio riferimento a un range di investimento che va dai 15 ai 30 mila euro, seriamente, nel senso che sotto questa cifra siamo a dei livelli di testa, dei livelli amatoriali che possono andare bene, ma a questo punto ci possono essere i portali e le piattaforme online per testare se effettivamente la tua idea, quindi eBay va benissimo per testare se determinate cose hanno o meno una domanda, ecco. Ma quando si vuole passare da, soprattutto se si è produttori di qualche cosa, di una nicchia, di un'idea di nicchia, si vuole provare a scendere veramente in campo e fare business, allora hai bisogno di configurarti come una microazienda, con la stessa serietà con la quale affronteresti l'idea di aprire un punto vendita, tirare su una serranda e costruirti un minimo di azienda per il pubblico, perché poi devi rispondere a un pubblico, devi avere la possibilità di avere delle tempistiche certe, di usare un'infrastruttura che sia realmente operativa, se no non riesci a far crescere il business. Naturalmente stiamo parlando di una cifra puramente indicativa, poi ci sono tanti dipende da mille cose, ma io chiedo sempre ai miei interlocutori di darmi un'idea degli investimenti di cui stiamo parlando, e sicuramente se confrontiamo questo con altri investimenti che le aziende devono fare, stiamo parlando di un investimento tutto sommato abbastanza contenuto, con dei ritorni molto interessanti se il prodotto oppure l'idea di un servizio è una buona idea o un buon prodotto. Poi ci sono anche delle piattaforme che permettono di ridurre gli investimenti in e-commerce, ma naturalmente se vogliamo fare un'offerta con un proprio sito di e-commerce, insomma, partiamo grosso modo da queste cifre. Poi bisognerebbe considerare anche la comunicazione, che è un aspetto molto importante. Allora, ci sono ancora molti che ci sono ancora molti che non hanno proprio compreso le opportunità dell'e-commerce, ma ci sono anche quelli che continuano a dire ma questo potrebbe cannibalizzare il mio canale di vendita tradizionale, oppure i miei partner che vendono in modo tradizionale. Allora sentiamo come hanno risolto il problema o come hanno affrontato il problema in una azienda di arredamento. Massimo Bianchi è uno dei fondatori di Extendo. Sì, l'e-commerce è un'opportunità favolosa, internet, il web in generale è un'opportunità di visibilità e di dinamicità. Noi dovevamo fare i conti, avendo già una distribuzione tradizionale sui punti vendita, dovevamo cercare di coniugare, mettere insieme questa opportunità di vendita online con però il rispetto dei punti vendita, che questo rispetto si è trasformato praticamente in un'opportunità anche per il rivenditore. Cioè uno dei vostri problemi era quello di evitare la famosa cannibalizzazione dell'e-commerce sul commercio tradizionale, l'offline. Esatto, esattamente. Come l'avete risolto? Se lo avete risolto. No, è risolto, infatti il risultato ce lo sta dando proprio direttamente il nostro cliente finale che predilige e capisce bene questa cosa. L'abbiamo risolto in questa maniera: il cliente finale ha due opzioni, ha la possibilità di recarsi presso il punto vendita, allo showroom, e acquistare i prodotti dallo showroom in maniera tradizionale, ricevendo tutti i servizi che lo showroom può offrire, quindi lo showroom viene a casa tua, prende le misure, rilievi, ti fa il progetto 3D, ti consegna e fa il montaggio. Oppure, nel caso, può acquistare il solo prodotto direttamente dall'azienda, quindi ecco un gran vantaggio economico. E quindi risparmia anche? Risparmia molto, abbastanza direi. Beh, possiamo dirlo, 30% risparmia su un prezzo di listino. Il stesso prodotto, invece di acquistarlo offline, lo acquista online e risparmia il 30%. Esatto, risparmia il 30%, deve pagare la fabbrica anticipatamente, ritira il prodotto presso lo showroom e poi o lo monta autonomamente oppure a posteriori può chiedere il servizio del solo montaggio allo showroom. In questo caso cosa sta vincendo? Sta vincendo il fatto che il privato sta andando presso i punti vendita anche prima di acquistare direttamente dalla fabbrica per toccare con mano il prodotto, quindi quello che solitamente si fa di nascosto con negli altri settori merceologici, dove la scarpa la si fa vedere o si va a provare, poi vado a casa e me la ordino online. In questo caso noi invitiamo i nostri clienti ad anticipare questa cosa, vai pure a toccare con mano, ricevi consulenza, ti spiegheranno e poi sei libero di acquistare direttamente da noi. E l'esercente, cioè il titolare del negozio, perché questi non sono negozi vostri, sono affiliati, però come reagiscono? Reagiscono bene, perché comunque recepiscono una provvigione su questo tipo di transazione, di operazione commerciale. Chiudiamo qui questa pagina dedicata all'e-commerce, al commercio elettronico. Le interviste che avete ascoltato sono quasi tutte in versione integrale, e la versione integrale è dedicata solo ai nostri utenti, ai nostri ascoltatori via podcast, quindi sul nostro sito internet o attraverso le piattaforme come iTunes, TuneIn Radio, eccetera, eccetera. Questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, potete interagire con noi anche attraverso i social network, che di fatto sono due quelli che utilizziamo, Facebook e Twitter. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it, scegliete tra i programmi 2024. Da qualche settimana stiamo cercando di fare una domanda, che è una domanda che ci fanno molti nostri ascoltatori: che cosa ce ne facciamo della banda ultralarga? C'è un progetto, una strategia per il momento del governo per portare banda larga in tutto il paese? Sapete che noi siamo tra i più grandi tifosi di una digitalizzazione del paese, di una diffusione della fibra ottica, ma è giusto domandarsi che cosa ce ne facciamo di 100, 500 megabit, 1 gigabit, ci sono già aziende che le utilizzano. Ne abbiamo sentite, anche la scorsa settimana abbiamo fatto una chiacchierata con un'azienda che utilizza 1 gigabit. Nelle prossime settimane saranno con noi aziende che sono già entrate nell'era del gigabit, ma sicuramente questo è un tema molto, molto interessante e molto importante. Tra poco parliamo anche di pagamenti elettronici, perché questa settimana è stata presentata un'altra app che permette di abbassare di molto le commissioni per gli esercenti e permette anche ai consumatori di scambiarsi denaro in maniera molto facile, molto semplice, tramite lo smartphone. Ma pensiamo adesso alla nostra banda larga, la banda ultra larga. Saluto Simone Bonannini, che è l'amministratore delegato di Interrut Italia. Benvenuto 2024. Grazie Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Prima domanda molto semplice: a cosa serve questa banda? Perché abbiamo bisogno di così tanta banda? Perché oggi molti ascoltatori o anche molte aziende potrebbero dire: ma il collegamento che io ho è più che sufficiente. Oh, ci sono tantissimi che invece scrivono e dicono: no, non è vero, non è sufficiente il collegamento che abbiamo a disposizione. Però ci sono anche quelli che di fronte a 100 megabit dicono: vabbè, ma di più perché? Voglio risponderti in una maniera diversa rispetto a quella con cui ti risponderebbero altri, quindi non mi metterò a fare il solito elenco di servizi dall'e-commerce alla videoconferenza, all'e-learning o alla telemedicina o il film in 4K, sì, che ti direbbe chiunque, perché poi iniziano i soliti dibattiti: non è vero, non serve, sì serve. Non mi appassiona più questo tipo di discussione. Io sono abituato a guardare i dati e i fatti, quindi se guardo indietro e guardo avanti, arrivo a dire che serve assolutamente una rete in fibra ottica, visto quello che è successo dal 1995 ad oggi, cioè ogni 7 anni si decuplica la domanda di banda a casa dell'utente finale. Questo significa che se oggi abbiamo già a disposizione le prime connessioni a 20-30 megabit o in modalità asimmetrica con le tecnologie ADSL e similari ancora sul rame, o addirittura i 100 megabit con le prime connessioni in fibra, di sicuro tra 7 anni avremo bisogno di 10 volte questa capacità. Cioè addirittura 1 gigabit? Assolutamente. L'agenda digitale parla di 100 megabit nel 2020, in realtà da mie stime già ne avremo bisogno tra il 2018 e il 2019. Ad ogni modo, se fossero 100 megabit nel 2020, andando avanti con il trend degli ultimi 15-20 anni, ci accorgiamo che nel 2026-2027 avremo bisogno a casa di tutti di 1 gigabit. Non è possibile che si arresti questo trend? Direi assolutamente di no, anzi quello che succederà e che sta già succedendo è che questo trend si simmetrizza, perché l'internet del 1995 prevedeva sostanzialmente il download delle informazioni, cioè tu a casa con il tuo PC accedevi ai vari siti, ai vari fornitori di contenuti e tiravi giù l'informazione. Oggi, da qualche anno, ognuno di noi con gli smartphone, con i tablet, con il proprio PC, con tutto quello che vuoi, molti di noi sono diventati dei produttori di contenuti e quindi fanno anche l'upload dell'informazione. Da lì è nato il cloud, le aziende hanno sempre più bisogno del cloud per altri motivi, per la virtualizzazione delle loro macchine, riduzione di costi e quant'altro, ma una cosa è certa, l'informazione oggi non più solo si scarica per guardarsi il film a casa, ma si carica anche per depositare un file nel cloud o addirittura una videoconferenza è ovviamente simmetrica. Certo. Quindi una delle cose peraltro che mi aspetto è che si chiarisca definitivamente una volta per tutte che quando si parla di 30 megabit o 100 megabit si aggiunga la parola dopo simmetrici, perché questo è quello che deve succedere, questo è quello a cui deve pensare il governo se si fa un piano di lungo periodo. Quindi mi aspetto che nei prossimi bandi o quando ci saranno i finanziamenti pubblici vadano nella direzione di prevedere la realizzazione di reti simmetriche. Allora, prima ci devono essere dei decreti attuativi di questo piano, infatti volevo un parere su questo, visto che il dibattito no, ma diciamo l'attuazione del dibattito, comunque del piano strategico del governo, si è un po', non so se dire arrestato, piantato, impantanato. Devo dire che io quasi tutte le settimane chiamo i pochi protagonisti che meritano attenzione, che secondo me potrebbero parlare, dire cose interessanti. Direi che tutti dicono non è il momento adatto, bisogna che aspettiamo un po'. Che parere ti sei fatto su quello che sta succedendo o che non sta succedendo? Beh, la mia diplomazia è nota, non esiste, quindi dico sempre quello che penso. Secondo me cosa deve succedere adesso? Il nostro Presidente del Consiglio, quindi Renzi, deve prendere una decisione, deve mettere gli occhi sul tema e deve andare avanti con i decreti attuativi o qualsiasi altra mossa voglia fare. Deve decidere se vuole veramente che il paese evolva, se si diffonda larga banda e infrastruttura in tutto il paese. Se sì, ha i consulenti a Palazzo Chigi preparati che conoscono il tema. Mi riferisco a Raffaele Tiscar. Esiste, che non è un consulente, che è proprio un membro della Presidenza del Consiglio. Vice segretario, ai consiglieri, ho usato il termine sbagliato. Ai consiglieri giusti. Sì. Il modello per me è molto chiaro, l'ha ribadito l'antitrust, credo che lo vado dicendo da anni, comunque l'antitrust l'ha ribadito recentemente. Il modello ideale è quello dell'operatore wholesale puro, non verticalmente integrato. Per parlare come si mangia, significa un soggetto che fa un'infrastruttura passiva in fibra ottica che poi viene messa a disposizione di tutti a parità di condizioni tecniche ed economiche. Questo soggetto ovviamente a mio avviso, se non può essere al 100% pubblico, dovrà essere a governance pubblica. Penso al modello Terna, quindi un 30% posseduto più o meno direttamente dallo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti, per esempio. Una percentuale di garanzia. Una percentuale di garanzia, e poi il resto può tranquillamente essere in mani private. Tra l'altro io dico spesso che quasi tutte le reti sono fatte così. La rete di telecomunicazione ha preso tutta una strada strana, particolare. Andatevi a vedere chi ha deciso la privatizzazione di Telecom e poi puntate il dito su alcune persone. Va detto, ed è per questo motivo che poi io ogni tanto interpello Simone Bonannini, che lui dice queste cose da una decina di anni, almeno da quanto mi risulta a me, vedendolo ai vari convegni delle telecomunicazioni. Tutto ciò come si può fare? Perché poi diciamo da un modello teorico bisogna passare alla pratica e non mi sembra che ci si sia. Beh, in realtà in questi ultimi, in questo ultimo periodo, qualche passo avanti fortunatamente si è fatto. Dopo anni di dibattito inutile, scorporo sì, scorporo no, scorporo forse, eccetera, dobbiamo renderci conto che siamo ad un passo storico di cambiamento tecnologico. Non ha più senso parlare di scorporo della rete in rame da Telecom Italia. Oggi dobbiamo pensare pensare a come costruire la rete in fibra per quei bisogni e quelle necessità di banda di cui ho parlato prima. Il soggetto che può fare da aggregatore è evidente, è Metroweb. Professor Bassanini lo dice da molto tempo. Abbiamo una visione leggermente diversa. Io non farei entrare nella compagine gli operatori di telecomunicazioni per mantenere una parità di condizioni. Addirittura? Sì, se proprio devono entrare, secondo me devono avere una percentuale molto bassa in modo da non poter incidere sulle decisioni. Sono convinto che le ultime notizie di stampa che vedono un potenziale ingresso di Enel siano cosa buona. Quindi spero che il professor Bassanini trovi modo appunto di far entrare Enel e magari non solo. Mi veniva in mente ad esempio anche Terna. Fossi l'amministratore di Terna Delfante, forse qualche pensata e qualche colloquio con i consiglieri del governo e il professor Bassanini la farei. Tutto ciò ha a che fare, fino a che punto? Perché io ho letto, ho anche fatto alcune domande ad alcuni esperti di sicurezza internazionali che piacciono e che conosco. Anche a che fare con la sicurezza delle telecomunicazioni, ammesso che si possa in qualche modo mettere al sicuro le telecomunicazioni oggi? Direi di sì. A me piace dividere la sicurezza delle telecomunicazioni in tre livelli: il livello più basso, quello fisico, il livello dell'apparato e il livello dell'applicativo, perché molto spesso si fa confusione. Ad ogni livello c'è sicurezza. Certo è che se il livello fisico fosse in mano e controllato dallo Stato, sarei in un qualche modo un po' più tranquillo, perché quantomeno chi potenzialmente può consentire determinati tipi di azione è qualcuno che democraticamente eleggiamo. Se fosse un privato, già mi preoccuperebbe di più. Bene, ringrazio Simone Bonanini per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Ma naturalmente una diffusione capillare di internet in banda larga servirebbe ad esempio alle imprese a fare e-commerce, visto che prima abbiamo parlato di commercio elettronico. Aggiungo una idea che mi sembra debba essere presa in considerazione e che all'interno di questo progetto nazionale, se mai si avvererà e se mai prenderà corpo, non sarebbe male pensare di metterci dentro anche tutta la fibra ottica, tutte le reti che le aziende municipalizzate, ex municipalizzate, soprattutto nel nord Italia, hanno steso in questi anni, e molto spesso purtroppo queste fibre ottiche sono pressoché o inutilizzate o molto poco utilizzate. Si sono costruite autostrade, ma ci girano sopra pochi camioncini, poche automobili, o solo della pubblica amministrazione o solo di qualche grossa azienda, e questo è veramente un peccato e uno spreco di denaro pubblico. Quindi se tutta questa fibra ottica andasse a confluisse all'interno di un grande progetto nazionale, questo sarebbe magari un recupero di denaro pubblico. Adesso parliamo di moneta elettronica e di una nuova applicazione. Ricorderete che qualche settimana fa abbiamo parlato di Satispay, che è una nuova applicazione, un nuovo servizio per scambiarsi moneta, ma anche per pagare. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata su come all'interno dell'Unione Europea sta cambiando il mondo della finanza. Bene, questa settimana c'è stata un'altra presentazione, è stata presentata una nuova applicazione che fa molte delle cose che fa Satispay, ma uso Satispay come punto di riferimento visto che i nostri ascoltatori l'hanno ascoltata da poco tempo, ma con una modalità, in questo caso ToPay, lo fa con una modalità un po' diversa. Daniele Bernardi è l'amministratore delegato di ToPay, scritto 2Pay come pagare, e ci ha spiegato come funziona questa applicazione, qual è il modello di business di questa startup. Un utente che scarica l'app, inserendo nome, cognome, codice fiscale, semplicemente può aprire una prepagata virtuale anonima. È all'interno del cellulare, quindi io la posso ricaricare con un semplice bonifico oppure con dei soldi che arrivano da un altro utente di ToPay, e la posso usare. La caratteristica principale è che il trasferimento del denaro è istantaneo, quindi chi lo riceve lo può utilizzare subito, a differenza delle app a cui viene registrata una carta di credito che virtualizzano semplicemente il gesto di inserire la carta di credito sul POS, no? Invece noi virtualizziamo il gesto di tirar fuori il contante e darlo in mano a una persona. E questo è valido sia per le persone tra persone, peer to peer come si dice in gergo tecnico, ma sia anche quando si fanno degli acquisti sia online che sugli esercenti, sui negozi. Nel mondo fisico, esatto, nel mondo reale. Ecco, quindi permettete di fare anche acquisti online? Sì, online la user experience è fantastica perché io non inserisco alcun dato personale nel sito, quindi non inserisco carte di credito, non inserisco dati, semplicemente fotografo un QR code che viene fuori dal sito da quando sono sul carrello di pagamento, viene fuori questo QR code, io lo fotografo col cellulare, inserisco il mio PIN di sicurezza ovviamente e ho pagato. La transazione non è possibile intercettarla, quindi il livello di sicurezza è massimo. La rete di accettazione è fondamentale perché io posso pagare su siti internet, quindi online, ma anche in negozi fisici solo se questo tipo di pagamento viene accettato. Come fate per diffondere l'utilizzo di 2Pay? Sì, allora, noi lo stiamo diffondendo adesso con delle reti di partner che vanno nei negozi fisicamente a spiegare, perché comunque va spiegata. Diciamo che diamo dei grossi vantaggi agli esercenti. Il primo è che paga 2 centesimi indipendentemente dal valore, dall'ammontare della transazione. Il secondo è che noi gli permettiamo di fare più business, di fare più vendite e quindi di ottenere migliori risultati. Come lo facciamo? Praticamente gli diciamo: se noi ti portiamo i nostri utenti nel tuo negozio, sei disposto a fargli uno sconto? E se sì, decidi tu l'entità, non ti imponiamo nessun percentuale, però così possiamo andare dai nostri utenti e dire: guarda, ti paghiamo per fare la spesa con noi, perché quando tu vai in un esercente che puoi pagare con 2Pay, questo esercente tu paghi 100 euro le scarpe, ma l'esercente ti ridà indietro un cashback istantaneo, cioè quindi dei soldi, un ritorno di denaro del 10-5, quello che è, e che decide lui, e quindi io ricevo indietro subito questi soldi che posso spendere dove voglio. Le transazioni tra utenti e quando effettuo il pagamento, queste sono gratuite? Allora, tra utenti è tutto gratis, sì. Quando invece vado da un merchant pago 2 centesimi, cioè il merchant paga 2 centesimi. Quindi per gli utenti è sempre gratis? Sempre tutto gratis, certo. E solo 2 centesimi la transazione per ogni transazione che paga l'esercente, ma voi ci guadagnate su 2 centesimi? No, il 2 centesimi l'abbiamo messo più che altro per non dire che è gratuito, che potrebbe creare più problemi che vantaggi. Qualche sospetto. Esatto, qualche sospetto. In realtà noi non guadagniamo dai 2 centesimi, guadagniamo dal modello di cashback, ovvero se l'esercente adotta questo modello di cashback, quindi restituisce dei soldi all'utente, noi in quella transazione guadagniamo l'1% indipendentemente da quanto sconto lui fa. Adesso parliamo della grande opportunità messa a disposizione di internet per tutti noi cittadini, ma soprattutto delle aziende. Abbiamo insistito molto in questa puntata sulle aziende. Ma è vero o no che ancora in Italia il numero delle aziende che ha compreso le grandi opportunità della rete internet non è molto elevato? Quindi ci sono ancora molte aziende che non hanno compreso queste dinamiche digitali che stanno trasformando il mondo. Ne abbiamo parlato con Massimo Costa, che è il country manager di WPP Italia, che è una delle più grandi aziende di comunicazione digitale del mondo, che ho incontrato questa settimana. È, a mio avviso, parecchio vero. È parecchio vero proprio perché se da una parte l'Italia rappresenta storicamente la cultura manifatturiera, artigianale, tipica dell'imprenditore, quindi dell'individuo che si pone sul mercato, oggi come oggi però non riesce o non sta ancora riuscendo come dovrebbe a fare quel salto culturale e capire che i mercati di riferimento non è più uno ma sono parecchi, si parla a livello globale, non più solamente a livello di città, comune o di nazione, e che il tipo di atteggiamento e di attrezzatura, se mi passi il termine, deve sostanzialmente cambiare. Quindi deve sì esserci il prodotto, il servizio di alta qualità che ci ha sempre contraddistinto nel mondo, ma deve essere veicolato in maniera diversa. Penso che sia anche però dovuto a un aspetto squisitamente anagrafico. Mi spiego meglio. La classe dirigente italiana, gli imprenditori italiani che hanno fatto delle cose fantastiche negli anni, comunque rappresentano una fascia di età abbastanza alta a confronto al resto del mondo, o ai paesi emergenti come il BRICS o Nest 11, piuttosto che invece ai paesi anglosassoni. Questo vuol dire che inevitabilmente, non avendo quella confidenza personale, non professionale, con la tecnologia, devono avere un periodo di tempo di gestazione forse più lungo. Ecco, io credo che arriveremo. Credo anche che l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro favorisca inevitabilmente questo processo. Qui si innesta un'altra discussione, e cioè come i giovani in Italia entrano nel mondo del lavoro, però è un discorso più complesso che esula da questa chiacchierata, credo, no? Sì. Molte aziende, lo sappiamo, ce lo diciamo tantissimo, sono piccole, piccolissime, medio piccole. Voi, dal vostro punto di vista, riuscite ad affiancarle? Allora, devo dire innanzitutto una cosa: avere un paese che ha una struttura, una colonna vertebrale economica fatta da piccole e medie aziende, a mio avviso è una grandissima fortuna, perché comunque sul territorio hai una marea di aziende più o meno grandi, più o meno piccole, specializzate, che compongono l'economia del paese. Se avessimo un paese fatto solo da 5-6 grandi aziende, avremmo un problema pesante a uscire dalla fase recessiva. Quindi questo è un aspetto positivo, a mio avviso. Torno a dire, è un aspetto culturale. Laddove l'imprenditore molto spesso, o il management che l'imprenditore prepone a fare le scelte di comunicazione, si rende conto che la comunicazione non è solamente quella storica classica del 30 secondi alla televisione, ma oltre a questa deve avere degli approcci nuovi, sicuramente si avvicina, perché non è un problema di dimensione ma di linguaggio. Se io sono noi l'anno scorso abbiamo adottato un'azienda qua in Veneto, durante l'advisory board l'anno scorso l'abbiamo presentata, l'azienda Lago è un'azienda familiare dove un giovane imprenditore, credo fossero 10 fratelli, ha deciso di prendere in mano un'azienda di famiglia che credo facesse in origine banche per le chiese, una cosa di questo tipo, ed è trasformata negli anni in un'azienda di design a nostro avviso molto interessante. L'imprenditore ha 40 anni, ha una visione e sicuramente, nonostante non stiamo parlando di una multinazionale ma di un'azienda familiare di dimensioni medie, lui si sta muovendo con grande dinamismo sia in termini di apertura dei suoi negozi sia però anche in termini di uso del digitale, dell'e-commerce per poter fare il suo business. È vero che nel nostro paese ancora oggi il digitale viene relegato in uno degli angoli dell'azienda, cioè quelli sono quelli del digitale? Allora, io di lavoro vado spesso nelle aziende e sono convinto, ad esempio uno dei tanti luoghi comuni che trovo sempre vero, che capisci di più vedendo una reception di un'azienda e camminando nel corridoio di come sia fatta l'azienda che parlando con il direttore generale. Ecco, molte volte mi rendo conto che nelle aziende esiste una struttura digitale, c'è un digital officer che però non è ancora così integrato con le vendite, il marketing e il management come dovrebbe essere. È un giovanotto brillante, intelligente, che fa delle cose strane, un po' tipo il piccolo wizard in un angolo dell'azienda, e non credo che le dinamiche di sinergia siano ancora ben oliate. Credo sia una questione di tempo. Questa è però un'opportunità. Se io guardo alla situazione digitale in Italia, mi rendo conto che nei prossimi 2 anni noi dobbiamo obbligatoriamente, tutti come paese, come cittadini e anche quindi nel business, come aziende, fare un salto in 2 anni che altri paesi hanno fatto in 10 o 15. Quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. E lo facciamo questo salto? Qualcuno lo sta facendo, qualcuno sta prendendo la rincorsa, qualcuno è ancora seduto, diceva quando eri piccolo andavi al mare, si facevano i tuffi dagli scogli, c'erano quelli che si tuffavano subito e c'erano quelli che stavano tutto il pomeriggio sullo scoglio. Diciamo che abbiamo una buona aliquota di gente seduta sullo scoglio. Questa era la voce di Massimo Costa, country manager di WPP Italia, che ho incontrato in occasione di un evento di presentazione di una grande operazione che riguarda il mondo delle agenzie digitali. HART, che è un'agenzia molto importante italiana che è stata creata, incubata all'interno di H-Farm e poi è confluita all'interno di WPP, si fonderà alla fine dell'anno con AKQA, una grande agenzia internazionale. Allora, abbiamo parlato di tante cose con Massimiliano Ventimiglia, che è stato il fondatore di HART. Una cosa mi ha colpito, che si sposa molto bene con quello che può fare il digitale oggi, e riguarda l'attesa. non è naturalmente solo una questione di banda larga. Sentiamo Massimiliano Ventimiglia. È una questione anche di banda larga. Ti racconto che cosa intendevo in quel punto, cercando anche di rifarmi un po' a quello che rappresentavo in quella chart. La fine della voglia di aspettare, no? Diceva quella chart lì, no? The end of waiting. Noi non abbiamo più voglia di aspettare. Allora, nella nostra quotidianità, lo sai benissimo perché lo vivi anche tu, lo viviamo tutti, il telefono ha portato a cambiare determinate abitudini. Se io ti chiedessi che cosa oggi non puoi fare dal tuo telefono, sono sicuro che tu ci dovresti mettere qualche secondo per cominciare a trovare qualcosa che forse non riesci a fare, e nel dirmelo probabilmente troveresti il modo di dire sì, però così forse ce la faccio, no? Perché non c'è, perché in realtà ormai non c'è quasi più, perché di fatto, per fortuna, ci stanno abilitando come consumatori a fare sempre più cose in modo appunto efficiente e intelligente proprio attraverso il proprio telefonino. Questo però comporta anche una diciamo così, un comportamento nuovo, un'attesa nuova da parte delle persone, che è peraltro un aspetto fondamentale della brand equity di qualunque brand. Cioè, quando tu oggi hai a che fare con una marca che non ti consente di fare delle cose in modo efficiente, ma che ti costringe a fare quello che tecnicamente viene chiamato un journey, no? Un viaggio, un percorso che è troppo complicato, perché devi passare attraverso barriere, filtri, processi burocratici che sono più lo specchio di quello che sono loro e non quello che invece possono fare per te, più tu sei frustrato e togli valore nel tuo percepito su quella marca stessa. Quindi è un aspetto cruciale far fare le cose in maniera veloce, semplice alle persone, soprattutto quando le persone cominciano a vedere che è possibile, perché hanno degli esempi, no? Prima facevamo vedere quanto è bella e quanto è intelligente l'applicazione di Delta Airlines, no? Facendola, raccontandola come con parole peraltro di altri grandi media, come una delle applicazioni più belle al mondo, forse la più bella al mondo dal punto di vista del consumatore, quella che ti dà un'esperienza da first class, no? A qualunque viaggiatore, indipendentemente da dove viaggia e per dove viaggia. Allora, il punto qual è? Che il segreto di quell'applicazione è che fa fare in modo straordinario tutto quello che un viaggiatore ha bisogno di fare attraverso il proprio telefono senza compromessi, perché è possibile, perché la tecnologia lo abilita. Quindi se il brand capisce che questa cosa è centrale, allora fa tutto per andare in quella direzione, fa assolutamente tutto, cambia i suoi processi organizzativi, cambia le proprie piattaforme. È un misto di fattori, prima ne raccontavamo alcuni, no? La democratizzazione, il fatto di abilitare le persone alle cose, la semplicità, il fatto di dargli dei servizi immediati che non hanno barriere cognitive, che non ti richiedono sforzi, no? per poterli utilizzare, il fatto di dare di inventare, di creare, di portare le persone a, diciamo, una forma di partecipazione proattiva, di quasi collaborare nel disegno di quello che sostanzialmente gli serve per vivere meglio il servizio. Allora, la fine dell'attesa è un po' un modo iconico di rappresentare uno stato mentale che tanti consumatori come noi vivono tutti i giorni. Noi non abbiamo più voglia di inefficienze, non abbiamo più voglia di fare file che non hanno un senso, noi abbiamo voglia di fare cose che hanno un senso, sforzarci dove ha senso, dove stiamo imparando che non lo ha, diventa proprio intollerabile, no? Chiudiamo questa puntata di 2024. Prima di salutarci, volevo leggere un messaggio che ci è arrivato dal nostro ascoltatore, molto interessante, che ci dice che in occasione dell'Earth Day Google ha legato al suo sito un piccolo gioco con una domanda: che animale sei? Allora, avevo visto una cosa del genere, ma non mi attirano moltissimi giochi, quindi non avevo partecipato, ma forse ho fatto bene, adesso niente di preoccupante. Comunque, allora, in questo gioco si doveva rispondere ad una serie di domande e in risposta si riceveva il nome di un animale con le nostre caratteristiche, in base quindi alle risposte che noi davamo. Allora, in realtà, scrive il nostro ascoltatore correttamente e con un'ottima attenzione, Google ha fatto una grandissima campagna di raccolta dati sulle abitudini di milioni di persone e alla fine gli ha dato anche dell'animale. Non sarà nulla di grave, scrive, ma è proprio facile fornire dati personali gratuitamente. Ed è proprio così. dovremmo pensarci più spesso. Adesso in questo caso effettivamente era una cosa anche abbastanza simpatica, però soprattutto nel mondo delle app, le app ci chiedono tante cose. Vuoi fare questo? Sei disponibile a far quell'altro? Sì, accetta, e poi una volta che è installata l'app noi magari ce ne dimentichiamo e i dati vengono raccolti. Dunque, come richiesto in tutte le puntate nella nostra versione podcast, io chiedo ai nostri ascoltatori, a tutti voi che ci ascoltate, come ci ascoltate. Questa settimana sono arrivati alcuni messaggi, e molti sono i messaggi di chi conferma che ci ascolta in automobile, sui mezzi di trasporto e soprattutto mentre corrono. Quindi mi fa piacere che ci siano molti ascoltatori di 2024 che fanno sport, quindi si mantengono in salute, si spera. Un ascoltatore in modo simpatico ci dice: ascolto in automobile oppure mentre corro e per poter finire la puntata faccio spesso strani giri, quindi l'allungo, la tiro un po' più per le lunghe per fare finire la puntata. Allora qua non so se dobbiamo fare la puntata più lunga per correre, per far correre di più, oppure dobbiamo farla un po' più breve per evitare di fare strani giri. Un'ascoltatrice ci scrive, ci dice, una bella email, un po' lunga, a cui risponderò, cercherò di rispondere nei prossimi giorni. Dice: vi ascolto mentre stiro e collego il tablet alla soundbar del televisore per non essere disturbata dal rumore del vapore e quindi di ascoltare meglio. A proposito di ascolto, volevo segnalarvi che in questa puntata non sempre sono in grado di farlo, ma in questa puntata in modo particolare tutte le nostre interviste erano ad un microfono, il che è sempre uno sforzo produttivo abbastanza importante, perché bisogna o fare muovere i nostri ospiti verso i nostri studi o in qualche luogo dove ci incontriamo, oppure fare muovere il conduttore che va col microfono, perché sono io che faccio le interviste e non è che c'è qualcuno che mi aiuta. Quindi speriamo apprezziate questo. Naturalmente la voce al microfono è più intelligibile rispetto a quella al telefono. A volte non riusciamo, dobbiamo fare le cose al telefono, e per fortuna che c'è il telefono e si ascolta un po' peggio. Ringrazio naturalmente anche tutti i nostri tecnici che ci aiutano durante la settimana. È tutto per questa puntata di 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre quello: 2024@radio24.it. Fateci pubblicità, fate ascoltare il nostro programma anche ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici locali che magari imparano qualche cosa in più. E poi ci sono anche dei politici molto bravi che magari ne sanno più di noi. Nelle prossime settimane indagheremo anche su alcuni indici, alcuni indicatori che riguardano il nostro paese. Come ho accennato in una delle ultime puntate, Accenture ha realizzato assieme a Oxford Economics una ricerca che ci racconta del Digital Index, del Digital Density Index, che riguarda alcuni paesi del mondo. Ci siamo anche noi italiani, non siamo messi benissimo, allora partiremo da questi dati per fare alcune considerazioni su quello che dobbiamo o possiamo fare. È tutto per questa puntata, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.